Buonasera a tutti. Allora, la volta scorsa, se non ricordo male, avevamo terminato con gli argomenti inerenti al Word, per cui questa sera ci concentreremo e inizieremo un nuovo capitolo che si chiama Excel, con una L, non come fanno molti l'errore di farlo con due. Excel. La lezione scorsa, se non ricordo male, avevamo giusto provato ad aprirlo il programma. E avevamo iniziato a spendere due parole per quanto riguardava le celle e gli indirizzi alle celle. Dico bene? Quindi avevamo detto che ogni cella è identificabile con un indirizzo. L'indirizzo si nomina con lettera più numero, quindi A1, H7, G5 e così via dicendo. Successivamente avevamo visto i metodi di spostamento all'interno del foglio, che sono fondamentalmente due, col mouse e con la tastiera. Con il mouse, forse avevamo visto solo con la tastiera, che bastava... Esatto, allora con la tastiera, abbiamo detto la lezione scorsa, basta andare a premere una delle quattro frecce direzionali, quindi le freccine che si trovano sulla destra della tastiera, in alto, in basso, destra, sinistra, il mio cursore, che è rappresentato da quella cella un pochino più spessa, si sposta appunto in basso, in alto, destra, sinistra. Quindi con la tastiera basta muovere le quattro frecce direzionali. Con il mouse, viceversa, basta cliccare su una cella qualsiasi, quindi ad esempio se io clicco su questa cella, vedete che lui si sposta in questa cella, se clicco qua, lui si sposta qua. D'accordo? Quindi niente di particolarmente complesso. Vediamo i metodi di selezione. Oh, innanzitutto avevamo detto cosa serve Excel, cioè cosa fa Excel. Tabelle, grafici, esattamente, calcoli. Vediamo i metodi di selezione. Allora, chi di voi utilizza già Excel, probabilmente conosce questo metodo di selezione qua. Cioè, cliccare su una cella e trascinare su più celle. Per chi lo conosce, io personalmente non lo apprezzo tantissimo come metodo, perché, avevamo già detto in Word, questo metodo qua rischia che se io voglio andare a selezionare giusto una cella vicino al bordo, mi sposto di un pochino e questa scende, vedete, subito di 30-40 righe, che è abbastanza controproducente. Nelle ultime versioni in realtà questo problema l'hanno abbastanza risolto, nel senso che quando c'è una tabella particolarmente lunga e il programma arriva verso il fondo della tabella, rallenta e mi dà la possibilità di selezionare soltanto fino al fondo della tabella. Comunque, generalmente io non lo apprezzo tantissimo come metodo. Quello che io vi propongo come selezione è lo stesso metodo che utilizzammo per selezionare più file vicini o lontani. All'epoca, se vi ricordate, noi parlavamo dello shift click e del control click, a seconda che i file fossero vicini o lontani. E io all'epoca vi dissi, utilizzo il termine oggetto, quindi un termine generico a ragion veduta, perché poi lo stesso metodo lo utilizzeremo anche più avanti. Ecco che questo meccanismo ci viene utile appunto anche in Excel. Quindi se voi vi andate a rivedere i metodi di selezione dei file fatti quando facciamo Windows, se al posto di leggere la parola file o cartella leggete la parola cella, i metodi sono esattamente analoghi. Quindi per selezionare più celle adiacenti, io clicco sulla prima del gruppo, alzo tutte le ditina, vado sull'ultima del gruppo senza schiacciare, ricordate queste cose, dopodiché schiaccio il pulsante maiuscolo o shift che dir si voglia, più clic. E lui mi seleziona tutte le celle che stanno nel mezzo. Analogamente, se io volessi andare a selezionare delle celle che non sono vicine, bensì non adiacenti, bensì lontane, il metodo è quello di andare a cliccare sulla prima, alzo le ditina, vado sulla seconda senza schiacciare e poi faccio CTRL più clic. Ed in questo modo ciò che ottengo è una roba di questo genere. Si vede? No. Non si vede perché il... Però vedete che le righe 7, 8, 11, 12, 11, 13, 16 sono evidenziate. È il contrasto del monitor. Comunque, si selezionano sostanzialmente delle celle non vicine le une alle altre. D'accordo? Ok. C'è poi la possibilità di selezionare anche un'intera colonna o un'intera riga. Per selezionare un'intera colonna schiaccio sulla lettera della colonna stessa. Sì, sulla lettera. Vedete che in alto ci sono le lettere A, B, C, D, F. Se io volessi selezionare tutta la colonna F, guardatemi un secondo, schiaccio sulla lettera F e vedete che lui mi seleziona tutta la colonna. Sì, sì, basta cliccarci. Va da sé che se volessi selezionare tutta un'intera riga, mi è sufficiente cliccare su uno dei numeri che sta sulla sinistra, e lui automaticamente mi seleziona tutta la riga. D'accordo? Control click. Quindi clicco sulla prima, vado sulla seconda senza cliccare, faccio control più click. Non è una cancellazione quanto una deselezione, basta cliccare su un punto qualsiasi. Quindi se io ho tutta una serie di celle selezionate, se voglio deselezionarle, schiaccio in un punto qualsiasi. Sì, ma anche dentro in realtà non è. Sì, sì. Attenzione a non usare cancellare, perché cancellare vuol dire che io cancello ciò che c'è scritto, in realtà sto deselezionando. D'accordo, signori? Cercate di memorizzarli questi meccanismi qua, perché poi li useremo durante le varie lezioni. Vediamo come si scrive all'interno di una cella. In realtà è molto semplice, basta cliccare sulla cella e scrivere. Quindi clicco sulla cella nella quale voglio apporre il mio testo. scrivo. E al termine schiaccio invio. Sottolineatevi bene questa cosa dello schiacciare invio, perché qualcuno potrebbe essere tentato, soprattutto le prime volte, di andare a schiacciare una delle quattro frecce. Che la qualcosa funziona anche. Funziona però nella misura in cui voi andate a scrivere del testo. Se scrivete delle formule, e quindi scrivete l'uguale, l'andare a schiacciare le quattro frecce dà un risultato completamente inatteso. Per cui, come buona norma, il consiglio che vi do è, quando voi scrivete qualcosa sulla cella, abituatevi a non schiacciare le frecce, che non è sbagliato. Ripeto, soprattutto se siete un po' inesperti, le prime volte che fate poi le formule vi trovate a non capire che cosa sta succedendo. Abituatevi a scrivere e schiacciare invio. Cioè l'invio, abituatevi che è una conferma per il computer. Schiacciare invio vuol dire, ok, quello che devo fare l'ho fatto, andiamo avanti. D'accordo? Quindi io clicco su una cella che potrebbe essere quella, scrivo Marco, schiaccio invio e lui ha scritto Marco sulla cella. Ok? Dopodiché a questo punto, se volessi scrivere qualcosa di fianco, con le quattro frecce mi posso muovere. Qua sotto, esattamente. Se volessi andare a fianco, posso schiacciare il pulsante Tab. Ah, sì. Il pulsante Tab. Esattamente. Però ripeto, non le quattro frecce. E lo ribadisco, a costo di sembrare noioso, non è che sia sbagliato usare le quattro frecce, è che in altre occasioni usare le quattro frecce dà dei risultati che non sono quelli attesi. Quindi voi abituatevi o invio per andare a capo o tab per andare a destra e vivete felici. D'accordo? Ecco, se voi andate su una cella dove c'è scritto qualcosa, la stessa cosa la trovate sulla barra della formula. La barra della formula è quella là sopra, vedete dove c'è quella F in corsivo con una X piccolina? Vedete che a fianco c'è scritto Marco? Quindi, ciò... Quindi, vedete che se io clicco su una cella vuota non c'è scritto nulla. Se io riclicco su quella cella c'è scritto Marco. Quindi scriviamocelo. Ciò che io scrivo su una cella viene visualizzato sulla barra della formula. E scrivetevi con parole vostre dove si trova, si trova sotto la barra degli strumenti. E sulla barra della formula. Vediamo. Scrivetevi che la barra della formula contiene ciò che ho scritto effettivamente, e sottolineate bene effettivamente. Capiremo poi nelle prossime settimane perché vi faccio specificare questa cosa. Vi posso preannunciare che ci saranno alcune situazioni nelle quali io vedo sulla cella scritto qualcosa, ma in realtà avevo digitato qualcos'altro. Senza che ve lo scriviate, ma giusto per non farvi rimanere col dubbio atroce, non dormire questa notte, se io faccio un'operazione, quindi vado a scrivere 2 più 3, sulla cella vado a leggere 5. Viceversa, nella barra della formula vado a leggere 2 più 3. È chiaro il meccanismo? Quindi ecco perché vi faccio scrivere che nella barra della formula trovate ciò che effettivamente avevamo scritto. Anche se poi nella cella sto visualizzando qualcosa di differente. Vediamo come modificare il testo. Se io voglio modificare il testo in una cella, ci clicco sopra . Ora signori, i metodi sono tanti. C'è chi preferisce farci doppio clic, c'è chi preferisce cliccare sulla barra della formula, c'è chi preferisce mille altri modi, van bene tutti. Io ve ne propongo uno, se i vostri colleghi, amici, parenti, conoscenti ve ne propongono degli altri, vanno bene tutti quanti. Io quello che preferisco è, ci clicco sopra e premo F2 sulla tastiera. F2. Sapete che la tastiera in alto, sopra i numeri, ha dei pulsanti che si chiamano F1, F2 fino a F12. Avete presente tutti? Ci clicco sopra, premo F2 e quello che succede è che semplicemente lì appare un cursore come se fossimo in Word. Quindi a quel punto io mi posso muovere proprio come se fossi in Word. Posso cancellare, posso spostarmi, posso modificare, posso fare quello che farei con un testo di Word. F2. F1 richiama l'help. F2 sulla tastiera. A presente, no? Dov'è l'F2? Purtroppo sicuramente laggiù non si vede. Comunque, nella tastiera, c'è la tastiera, ci sono i numeri, la prima fila sono gli F1, F2, F3, F4. D'accordo? C'è proprio scritto, comunque, F2. Oppure, se preferite, potete anche pensare di farci doppio clic. Ottenete lo stesso risultato. Io personalmente prediligo di più la tastiera e soprattutto per chi magari non è praticissimo col mouse perché sta imparando da poco a usare il computer, fare doppio clic magari vuol dire che un clic lo fa in una cella e un clic lo fa nell'altro, per cui magari soprattutto per chi non è particolarmente ancora pratico di questo strumento rischia poi di essere un'esperienza frustrante. Invece voi cliccate sulla cella che volete modificare, premete F2 sulla tastiera che quantomeno sta ferma lì, e poi fate le modifiche del caso. D'accordo? Quindi abbiamo visto l'inserimento, abbiamo visto la modifica, vediamo anche la cancellazione del testo. Se io voglio cancellare il contenuto di una cella, ci clicco sopra e schiaccio il pulsante Canc, che già ben conosciamo dal programma Word. schiacciando il pulsante cancio, come potete vedere, quello che succede è che il testo che c'era sulla cella scompare. D'accordo? Allora, signori, esistono fondamentalmente due tipologie di tabelle in Excel. Quindi, come titoletto del paragrafo, possiamo chiamare tipologie di tabelle. Ora, che per chi di voi un altro anno volesse seguire il corso di secondo livello con me, su questi argomenti torneremo e li approfondiremo con molti particolari e molta attenzione. In questa sede le citiamo soltanto, le faremo vedere, vedremo qualche operazione che si possono fare con l'una e con l'altra e vedremo come passare dall'una all'altra, ma in maniera sostanzialmente veloce. Allora, le due tipologie di tabelle sono le seguenti. Uno, tabella data base. Poi lasciate un po' di spazio tra il punto 1 e il punto 2. 2, tabella riga colonna. Esiste poi un processo che mi permette di passare dalla tabella database alla riga colonna. Quindi ripeto, esiste un processo che mi permette di passare dalla tabella database alla tabella riga colonna. E che si chiama tabella pivot. Pivot. Sì, sì, esiste anche il pivot a pallacanestro, effettivamente. E lo dice a me. Ok, chiaramente adesso tutti questi nomi non vi dicono niente, adesso li andremo un pochino a spiegare e spero che sia un pochino più chiaro. Poi comunque durante le prossime settimane li vedremo. Allora, iniziamo a spiegare un po' che cos'è la tabella database. Allora, iniziamo a parlare della tabella database. Allora, la tabella database è una tabella. Che inizia con le intestazioni, delle colonne rigorosamente dalla cella A1. Può contenere celle vuote, ma non righe o colonne vuote. Avete scritto tutti? Allora, in realtà la spiegazione è più lunga di non quanto puoi andarla a scrivere. Sostanzialmente una tabella database, abbiamo detto, inizia dalla cella A1 con le intestazioni, ok? Ok? Una tabella database chiaramente molto stringata è fatta in questa maniera qua. Cioè, le intestazioni iniziano rigorosamente dalla cella 1. Rigorosamente vuol dire che non... cioè, può sembrare carino un bel titoletto magari sopra, con su scritto fatture, ma non si deve. Non si deve per il semplice motivo che questa è una tabella tipicamente molto funzionale, che deve essere il più scarna possibile, cioè senza abbellimenti o altro. Deve essere funzionale, prima di tutto. Non deve contenere unioni di celle, non deve contenere porcherie varie. Deve avere una serie di colonne nei quali vado a inserire dei valori. Può contenere delle celle vuote, ma non delle intere colonne o righe vuote. E, a costo di sembrare noioso nuovamente, per chi di voi un altro anno volesse seguire il mio secondo corso di Excel, vedrà la marea di motivi per cui io faccio queste affermazioni oggi. Perché così non si possono fare le tabelle pivot, non si possono importare in access, non si potrebbero fare tutta una serie di operazioni che solo seguendo questi canoni che vi ho detto si possono effettivamente fare. D'accordo? Quindi una tabella di database è fatta in questa maniera qua. Che cosa rappresenta una tabella di database? Rappresenta una situazione dettagliata. La tabella database rappresenta un dettaglio. Quindi mano a mano che arrivano le fatture io le registro. Mano a mano che supponiamo di essere in una scuola e di essere dei professori anziché dei presidi di una scuola, mano a mano che arrivano i voti dei vari studenti io li registro. Sono il magazziniere di un magazzino, mano a mano che arrivano le merci o escono le merci io le registro. Quindi è una situazione di dettaglio. Siete d'accordo, signori? Perfetto. Questa tabella risponde alle domande chi quali se io ho una tabella di questo tipo, posso chiedere a questa tabella chi sono tutte le persone che hanno fatto, che hanno acquistato qualcosa a marzo? Quali sono le fatture emesse in gennaio? D'accordo? Ma poverina, questa tabella non potrà mai rispondere, o meglio, a meno di fare le cose all'italiana, che poi ci inventiamo procedure, chissà, Non potrà rispondermi, immaginatevi una tabella chiaramente non di tre righette, ma una tabella magari di 20.000, 30.000, 40.000 righe e magari con 10-15 colonne. Ecco, una tabella del genere non vi può rispondere alla domanda quante sono, perché quante sono diventa impegnativo, cioè dovrei o contarmele o fare chissà che cosa, d'accordo? Questa tabella risponde alla domanda chi sono, quante sono, quali sono. Dopodiché esiste la tabella riga-colonna. La tabella riga-colonna ha delle intestazioni. Sulle colonne, delle intestazioni sulle righe, a differenza di quella prima, quella prima, se vi ricordate, aveva le intestazioni solo sulla colonna, non sulle righe. Le intestazioni sulle colonne, intestazioni sulle righe, e al centro dei valori possibilmente omogenei. E al centro dei valori possibilmente omogenei. Anche qua è più lunga la descrizione che non poi scrivere. Ve lo siete scritte prima l'esempietto della tabella database, signori? Allora, una riga colonna sostanzialmente è fatta in questa maniera qua. Gennaio, febbraio, marzo, Piemonte, Liguria, Sicilia, 100, 300, 340, 100, 250, 300, 200, 100, totale 4.500, 4.700, 4.40, 4.90. Siete d'accordo che una tabella di questo tipo è nettamente diversa da quella di prima? No, no, no, no, si può iniziare tranquillamente anche da cellule diverse, sì. L'ho fatto appositamente. A differenza della precedente, che cosa esprime una tabella di questo genere? Dei? Sì, ma cosa mi dicono questi numeri? Luogo e periodo. Ok, in questa particolare tabella. Però estrapolando un attimino la tipicità della tabella, perché invece del gennaio, febbraio e marzo ci poteva essere scritto Marco, Luca e Giovanni, al posto di Piemonte, Liguria e Sicilia poteva esserci scritto Comodini, Salottini e Camarette. Allora, fa un calcolo, ma inteso come una visione di insieme. Cioè quel 100, quel 300, quel 200, supponendo che siano magari i pezzi venduti in gennaio, febbraio, marzo, in Piemonte, Liguria, Sicilia, sono un insieme di fatture, sono un insieme di dettagli. Quindi questo tipo di tabella rappresenta una situazione globale, una situazione di insieme, che è ben lontana dal dettaglio di prima. Siete d'accordo, signori? Era proprio per farvi vedere che non è obbligatorio iniziare dalla cella 1. Cioè questa qua io la posso iniziare un po' dove voglio. Cioè non mi turba il fatto di iniziare da un'altra cella. Sì, mi dà una visione globale, una visione di insieme. Quell'altra non è che non si possa fare un totale, però l'altra mi dà proprio una visione nettamente diversa. Cioè l'altra mi dice, ok, man mano che arrivano le fatture o man mano che arrivano i voti, io li registro. Qua invece, a fine mese, ho un'idea di quante sono le fatture, di quanti sono i pezzi. Cioè è proprio un'ottica diversa. Mi spiego, signori? È come avere, ad esempio, che ne so, una bolletta del gas. Allora, io ho una bolletta del gas, avrò un consumo. La bolletta del gas, per intenderci, è una tabella riga-colonna. Perché? Perché a fronte di un consumo di gas orario, giornaliero e così via dicendo, viene fatto il consumo globale del mese, se non del bimestre, anziché del trimestre, a seconda del tipo di bolletta che ho, e mi viene presentata la bolletta. D'accordo? Quindi il fornitore nel proprio database avrà il consumo orario o giornaliero di ciascun utente. Alla fine mi dà una visione d'insieme sotto forma di bolletta. Così è più chiaro il discorso? E qua è lo stesso discorso. Quindi man mano che arrivano le fatture o le forniture, io me le vado a registrare in una tabella di tipo database. Alla fine del mese, alla fine del bimestre, alla fine dell'anno, faccio una tabella riga-colonna che mi dà la visione d'insieme. D'accordo? A quali domande risponde questa tabella? Sicuramente quante sono, o comunque quanti, quanti, quante, e anche qual è la media, qual è il totale il minimo, il massimo e così via. Quindi a fronte di tutta una serie di valori lei mi va a dire qual è la media, qual è il totale, qual è il minimo, qual è il massimo, quante sono. Allora, se me l'ha imposto io, la devo chiaramente fare io. Aspetti, prima faccio una promessa, l'ultima promessa. Signori, fino a qua ci siamo a livello concettuale. Allora, la domanda del signore è calzante, perché giustamente uno dice, vabbè, ma me la devo fare io o lo fa il programma? E lì le scelte sono due. Allora, o me l'ha imposto io, quindi sostanzialmente i calcoli, per dirla in breve, me li devo fare io. Oppure nel caso delle bollette, mi farò delle bollette gennaio, febbraio, marzo, anno 2001, 2002, 2003 e mi vado a scrivere i vari importi delle bollette. Quindi me li vado a imputare direttamente io. Oppure posso partire da una tabella di tipo database. Quindi man mano che arrivano le bollette io me le vado a segnare una per una, riga per riga. Per passare da una tabella database a una tabella riga colonna devo fare una tabella pivot, un processo, un procedimento che vedremo alla fine delle lezioni di Excel che si chiama tabella pivot. D'accordo? E in quel caso quindi viene fatto in automatico. La barra della formula? Allora, se io clicco però su una cella, se io clicco su una cella, nella barra della formula mi fa vedere ciò che avevo scritto nella cella. Chiaramente se io clicco su una cella vuota, lui non mi fa vedere nulla. È chiaro, signora? Allora, in realtà è proprio una visione diversa, nel senso che la barra della formula mi fa vedere quello che c'è scritto su una cella, non su tutta la tabella. Su tutta la tabella no, cioè la mia barra della formula mi dice cosa c'è in una cella, non su tutta la tabella. Se io voglio sapere su ciascuna delle celle cosa c'è scritto, clicco su ciascuna delle celle e guardo la barra della formula. Mi sono spiegato? Sono d'accordo con lei. La mia risposta è, lei il prossimo anno venga con me a seguire il corso di Excel e nei primi 3 mesi glielo spiego. Quindi sostanzialmente le devo rispondere, o lo prende come un dogma di fede, oppure la prima volta che ha dei problemi si accorgerà del motivo, nel senso che non sono spiegabili in due parole. I motivi fondamentali sono... Il primo è che se un domani lei dovesse mai avere a che fare con un sistema di database qualsiasi, che potrebbe essere Access, potrebbe essere magari in un'azienda AS400, Oracle, qualcosa del genere, Se lei non inizia dalla cella 1, questi sistemi non permettono l'importazione. Poi uno dice, vabbè, io non lavoro in un'azienda grossa, lavoro in un'azienda piccolina, non me ne frega niente, va bene, già questo non importa. Però ci sono tutta una serie di altri motivi, anche l'esportazione in un file di testo semplice per magari spedire ad una persona che sta oltre oceano e non può avere dei file particolarmente grossi, impone che si inizi dalla cella 1, perché sennò questi sistemi di esportazione entrano in tilt, iniziano a dare errori. Quindi diciamo così, per liquidare la risposta in poche parole, le posso dire per possibilità di scambi tra sistemi diversi. In realtà la risposta implica una spiegazione più lunga, che ripeto, nei corsi appunto avanzati impieghiamo anche un paio di mesi a spiegare. D'accordo signori? Quindi è chiaro un po' il meccanismo. Entriamo un pochino subito nel vivo del discorso. Lascio un attimo stare il discorso di scrivere una parola più lunga di una cella o altro, perché è interessante ma meno significativo. E volevo partire direttamente con le formule, così iniziamo a vedere proprio Excel dal vivo. Ora, a casa, vi invito ad impostare una tabella come quella sul monitor. Quindi una tabella che ha righe e colonne. Sulle intestazioni c'è scritto gennaio, febbraio, marzo, sull'intestazione di colonna. Sull'intestazione di riga c'è scritto Piemonte, Liguria, Sicilia. E al fondo c'è scritto totale. Ok? Allora, mentre il totale me l'ero fatto io prima a mente, è chiaro che finché i numeri sono pochi e peraltro semplici, è facile. Ma nel momento in cui la situazione si complica, chiaramente bisogna trovare dei metodi alternativi. Allora, le formule sono sostanzialmente dei calcoli. Ora, quando abbiamo iniziato a fare la prima elementare, le maestre ci hanno spiegato che per fare dei calcoli dobbiamo scrivere 1 più 1 uguale e scrivere sotto la formulina, il risultatino. Ora, in Excel si parte al contrario, cioè si parte dall'uguale. Quindi, nel momento in cui io voglio dire ad Excel: caro Excel, non ti sto mettendo dentro un testo e nemmeno un numero, ma una formula. La prima cosa da fare in Excel, in una cella di Excel, è scrivere uguale. Sulla tessera, sì. Pardon? All'uguale sulla destra in alto. Shift 0. Quindi ripeto, la prima cosa da fare quando io voglio effettuare una formula, in questo caso il totale che cosa sarà? Avessi una calcolatrice, cosa dovrei fare? 100 più 100 più 300, giusto? Ok, quindi invece di scrivere 100 più 100 più 300 uguale, devo scrivere uguale e poi effettuo l'operazione, quindi 100 più 100 più 300. Schiacciando invio, lui mi dà il risultato. Sì, ma in realtà l'unica cosa che c'è di contrario è il fatto che l'uguale invece di metterlo al fondo lo devo mettere all'inizio. Diciamo che è una convenzione che serve al programma proprio per dirgli guarda caro mio Excel, non ti sto mettendo dentro del testo o dei numeri, ma ti sto mettendo dentro una formula. Potevano metterli in realtà qualsiasi simbolo. E quando io metto l'uguale, scrivo l'uguale, lì nella cella mi viene l'uguale? Sì, sì. Sì, se io vado qua, ad esempio, lo faccio anche qua, scrivo uguale, e lui aspetta che io gli dica qualcosa. A quel punto scriverò 300 più 200 più 200. Okay? Quando schiaccio invio, viene fuori il risultato. D'accordo? Ora, signori, se voi andate in una di queste due celle e guardate la barra della formula, così forse spiego anche meglio alla signora, che è su una sola cella che è la barra della formula. D'accordo, signora? Vedete che è diverso quello che c'è scritto nella barra della formula con quello che c'è scritto nella cella. Nella barra della formula c'è ciò che effettivamente avevo digitato. Mentre la mia celletta mi fa vedere il risultato. È chiaro, signori? È difficile fare una formula? Direi di no. Come boh? È chiaro che bisogna fare più uno su una calcolatrice o a mente, però. Poi è vero, signori, noi italiani non brilliamo in matematica. Purtroppo è una cosa di cui mi accorgo tutti i giorni. Se in Italia diciamo i fusi come immobile anziché nel mezzo del cammin di nostra vita, si vede che quello ha studiato. Se parliamo della teoria della relatività o dei neutrini che vanno più veloci della luce, ma quello è un tecnico. Ma come un tecnico? Hanno smentito anche quello. Sì, sì. C'erano i calcoli sbagliati. Vabbè, comunque, a parte il discorso, cioè, il discorso è che magari uno parla della velocità della luce, i neutrini, cosa del genere, ma sì, è un tecnico. Ma come un tecnico? In Italia siamo così. E va bene. Comunque, al di là di questo, insomma, è chiaro che almeno uno più uno bisogna saperlo fare, o bisogna capire il meccanismo, ecco. Ora, c'è però un piccolo problemino in questo meccanismo. Quindi scriviamocelo. Così facendo abbiamo un vantaggio e uno svantaggio. Ora, il vantaggio è che il calcolo lo fa il programma. E uno giustamente potrebbe dirmi, vabbè, bella forza, anche una calcolatrice da 3 euro me lo fa il calcolo. Il calcolo me lo fa il programma, ma soprattutto lo posso verificare sulla barra della formula. E già questo una calcolatrice non me lo permette, o almeno non quella da 5 euro. Quindi questo, signori, già vi potrebbe far venire voglia di abbandonare la calcolatrice che avete sulla scrivania in favore dell'Excel. Ah, quella no. Lo svantaggio è che se cambia un numero, devo cambiare anche la formula. È pacifico, no, signori? Io avevo scritto uguale 100 più 100 più 300. Se mi accorgo che invece del primo 100 era un 150, lo cambio sopra, ma lo devo cambiare anche nella formula. Il signore con gli occhiali a penzolini, è d'accordo? No, si possono inserire le quattro operazioni classiche. Sì, sì, sì, sì. 10 meno 30 più 40 diviso 50, sì, sì. Però in realtà il nocciolo di questo discorso era un altro, cioè se io per mi accorgo che qua invece di 100 devo scrivere 150, lo cambio qua, ma poi mi devo andare a prendere anche la briga di tornare qua sotto e di andarlo a modificare anche qua sotto. È pacifico, no, questo? Ora, signori, voi capite bene che una roba del genere su una tabellina di questo tipo è ancora fattibile. Ma se al totale io ho calcolato l'IVA, poi ho calcolato il totale più IVA, poi ho calcolato la trasformazione da euro a lira, poi ho calcolato altre cose in cascata, beh, è chiaro che cambio un numero e devo andare a cambiare una patera di roba in cascata. E capite bene che questo diventa un meccanismo abbastanza elaborato. Quindi è chiaro lo svantaggio qual è. E oltretutto un altro svantaggio è che ho la doppia possibilità di fare errore. Perché un errore di battitura, se io faccio due volte la battitura, ho doppia probabilità di farlo. Quindi scriviamocelo. E inoltre ho maggiore possibilità di commettere errori di battitura. Allora qual è la soluzione? Quindi, soluzione due punti. Per risolvere il problema, sostanzialmente che cosa si fa? Al posto dei numeri, si mettono gli indirizzi delle celle nei quali si trovano quei numeri. Quindi, signori, se io prima avevo scritto uguale 150 più 100 più 300, scriverò uguale, invece di scrivere 150 scrivo C5. Al posto del più scrivo? No, al posto del più scrivo? C'è sempre qualcuno che ci casca. Al posto del più scrivo? Più. Più o meno per diviso sono sempre loro. Poi C6 più C7. Ora vedete che effettivamente lui mi contorna con colori diversi le celle che sto andando a coinvolgere. Ma non state a scriverlo, lo noterete poi a casa. Schiaccio invio e lui mi dà il risultato, ma soprattutto se mi rendo conto che invece di 150 qua avevo 200, automaticamente aggiorna la formula. Ve lo faccio vedere bene. Se io qua scrivo 0, il mio 600 diventa 400. Subito. Capite bene che se a quella formula ne sono collegate altre 6 in cascata, non è più un mio problema, perché sarà il programma che in automatico si calcolerà il totale, l'IVA, il totale più IVA, la conversione euro-lira e chi più ne ha più ne metta. È bravo. Ok. Quindi signori, conclusione. Vanni, qual è la conclusione? Conclusione di questo discorso. Sebbene si possano mettere numeri nelle formule, e l'abbiamo visto prima, no? Io prima addirittura ho fatto una formula con soli numeri, e non è che non si possano mettere. Non vanno, sebbene si possano mettere numeri nelle formule, non vanno mai messi. Il motivo, signori, ve l'ho fatto vedere prima, perché se malauguratamente il numero dovesse cambiare, la formula non si aggiorna. Significa non essere mai sicuri di quello che si è fatto. Sì, oddio, lì poi è un'angoscia, anche una cosa compulsiva, se, come quelli che escono di casa e controllano 20 volte il gas, però... Sì, sì, poi è un'ansia. Beh, comunque, insomma, il concetto, grosso modo, si avvicina a questo. Cioè, il discorso è, signori, mettere il numero all'interno di formule, diciamo così, se poi appunto questi numeri dovessero cambiare, le formule non si aggiornano. Quindi poi, magari in un secondo momento, andare alla ricerca di tutte quelle formule che contengono quel numero, andarlo a cambiare, diventa problematico. Ora provate a fare il caso adesso che è cambiata recentemente l'IVA. Yuhu. E se io avessi fatto tutti i calcoli dell'IVA, magari in un grosso foglio di lavoro o altro, al 20%, andare a rimodificare tutto al 21% voleva andare a fare la ricerca del numero perduto. Viceversa, se io il 20% l'avessi scritto in una celletta lontana e mi fossi riferito sempre a quella celletta, un domani che cambia dal 20 al 21, automaticamente tutti i calcoli vengono aggiornati in maniera autonoma. D'accordo, signori? La formula è il totale in questo caso. In questo caso banale è il totale, sì. Che però si può fare. Si può fare. Allora, bisogna cambiare sempre la formula, cioè aggiornare sempre la formula in ogni caso. Riprendendo il discorso che facevo prima. Esatto. Esatto. Memorizzare sempre quella e cambiare quella. Esatto. Ora, signori, il più si fa col più. Il meno si fa col meno, la moltiplicazione si fa con l'asterisco, la divisione si fa con lo slash, che è questo simbolo qua. No, quello è il meno. Se voi avete una tastiera tradizionale, che avete il tastierino numerico sulla destra, ve li trovate tutti lì i simboli, più o meno per diviso. Guardi, devo essere sincero, non la sento perché parlano. Dica. Quando ho fatto cosa, scusi? Per inserire i codici non numerici, ma C6, C7, C8. E andato a prendere dal basso. No, li ho digitati a mano, solo che mi apparivano delle cose diverse che poi vedremo più avanti. Cioè, se io scrivo uguale, perché l'importante è scrivere uguale, prima. Signori, scrivete, guardate questa cosa qua. Perché se non scrivete uguale, lui vi scrive pedestramente C6 più C4 più C5. Se voi non scrivete l'uguale, lui vi scrive pedestramente C5 più C6 più C7. Quindi attenzione a questa cosa qua a casa. Per rispondere alla sua domanda, sperando di aver capito, quando io vado a scrivere domodossola 5, scrivo domodossola. Solo che nel momento in cui scrivo D, lui mi fa apparire questa tendina, che poi vedremo più avanti che cosa vuol dire. Sono le funzioni, però le vedremo più avanti. Quindi semplicemente D5 io lo scrivo con la tastiera. Solo che nel momento di transizione scrivo la prima lettera e lui mi propone delle cose. D'accordo, signori? Lo vedremo più avanti. No, questo lo vediamo già per quest'anno. Allo spiritoso, signore. Venga con me il prossimo anno. Poi vediamo chi ride. Chieda chi ha fatto con me Excel 2 anni fa. In realtà, signori, adesso a parte gli scherzi, per chi volesse poi approfondire questo strumento qua, il taglio che do al corso del prossimo anno di Excel è decisamente medio-alto, quindi per chi avesse intenzione poi di approfondire questo programma, perché magari lo usa in ufficio o pensa che gli possa servire o altro, farò un corso che poi chi è qua me lo può confermare, insomma, discretamente bello, ecco. Anche abbastanza pagante, perché interessante, perché comunque facciamo la gestione di tutte le tabelle database, con filtri, con formule su più colonne, con condizionali, formule logiche, e poi andremo a fare tutta la gestione delle tabelle riga-colonna in maniera anche piuttosto complessa, e le tabelle pivot in maniera molto completa. E soprattutto andremo a vedere moltissime delle funzioni presenti sul programma. Funzioni per gestire la data, funzioni per gestire la logica, funzioni per gestire veramente chi più ne ha più ne metta. Quindi per chi lo usa come strumento di lavoro, personalmente io lo consiglio così. Anche se avete magari parenti, amici, conoscenti che sapete che lo usa in un ufficio, consigliatelo per il prossimo anno. Boh, fine pubblicità. Allora, signori, a casa vorrei che voi provate a fare questa tabellina che vi aiuta a prendere un po' di confidenza con lo strumento e soprattutto fatevi anche il totale sotto con le formule. Ok? Per i più intraprendenti provate a fare anche il calcolo dell'IVA e il totale più IVA. Vabbè, insomma, una volta capito il meccanismo per uno, gli altri... Scorporo, lasciamo a casa. Va bene? Buona serata, buon weekend, ci vediamo venerdì prossimo.